Capitolo 47. Una mattina, erano i primi di novembre, stavo occupandomi di alcune lettere di affari dopo la colazione quando Eliza Millward venne a trovare mia sorella. Rose non era intelligente abbastanza da considerare quel piccolo diavolo come la consideravo ormai io, e la loro amicizia andava avanti come sempre. Quando arrivò nella stanza c'eravamo solo Fergus e io, perché mia madre e mia sorella erano impegnate a sbrigare alcune faccende. Io non avevo alcuna voglia di intrattenerla e preferivo che se ne occupasse qualcun altro, quindi mi limitai a salutarla e scambiare qualche freddo convenevole e tornai a scrivere, lasciando a mio fratello, se ne aveva voglia, ulteriori gentilezze. Lei però sembrava ansiosa di provocarmi. Che piacere trovarvi in casa, signor Markham! Esclamò con un sorriso tutt'altro che innocente. Non vi vedo quasi mai ora che non venite più a farci visita. Mio padre è offeso, non ve lo nascondo, disse accomodandosi attorno al tavolo. Oh, sono stato piuttosto indaffarato ultimamente, le risposi senza alzare gli occhi dalla lettera. Ah sì? Avevo sentito dire che avete trascurato gli affari invece. Voci infondate, direi, considerando che negli ultimi 2 mesi sono stato particolarmente operoso. In effetti non c'è niente di meglio che darsi da fare quando si è disperati. Scusate se ve lo dico, signor Markham, ma non avete un bel aspetto. Il vostro umore di recente è stato davvero pessimo. Verrebbe da pensare che siate afflitto da una misteriosa angoscia. Un tempo avrei osato chiedervi di cosa si trattava, aggiunse timidamente, e se potevo fare qualcosa per sollevarvi, ma ora non so se avrei lo stesso coraggio. Oh, siete molto premurosa, Eliza, e se giudicherò che possiate sollevarmi in qualche modo, ve lo chiederò. Oh, ve ne prego, sì, immagino che non sarebbe cosa facile per me intuire la causa di tanto turbamento. Non disturbatevi a intuirla, ve la dirò io stesso. Il mio maggior turbamento è una signorina seduta proprio ora al mio tavolo che mi impedisce di portare a termine il mio lavoro. Non ebbe il tempo di rispondere al mio commento scortese, perché arrivò Rose e, dopo essersi salutate, andarono a mettersi entrambe davanti al camino, al quale era appoggiato anche Fergus, con le mani in tasca e le gambe incrociate. Adesso Rose vi darà una notizia e spero davvero che non l'abbiate già sentita, perché è sempre piacevole essere i primi a darla, bella, brutto o indifferente che sia. Si tratta di quella signora Graham. Sh, zitta! Le disse Fergus in tono serio. Mai la menzioniamo, mai la nominiamo. Poi, sbirciando, lo vidi che mi guardava tenendosi un dito sulla fronte e poi, scuotendo la testa, si rivolse alla ragazza. È fissato, in effetti, ma non badateci troppo, a parte questo sta bene. Non vorrei ferire i sentimenti di qualcuno, aggiunse lei a bassa voce. Magari ne parliamo un'altra volta. Non temete, signorina Millward, siete libera di parlare di qualsiasi cosa in mia presenza, intervenni ignorando la battuta di Fergus, a patto che sia la verità. Forse siete già al corrente del fatto che il marito della signora non è morto in realtà, ma che lei era fuggita? Sussultai, bruciante di indignazione, e riabbassai il viso sulla lettera per piegarla. Ma non credo sappiate che ora è tornata da lui e sono tornati insieme. Pensate, disse rivolta a Rose, che era rimasta senza parole, che uomo da nulla deve essere il marito. Chi è stato a darvi questa notizia, signorina? Le domandai interrompendo le domande di mia sorella. Le ho ottenute da una fonte affidabile, signore. Chi, se posso chiedere? Un domestico di Woodford. Non sapevo che aveste tanta confidenza con la casa del signor Lawrence. A dire il vero, non è stato lui a dirlo a me personalmente, ma l'ha confidato a Sara, la nostra cameriera, che poi l'ha riferito a me. In confidenza, immagino. Così come in confidenza voi la riportate a noi adesso. Eppure vi assicuro che si tratta di una storia che non si tiene in piedi, è vera anche per meno di metà. Parlai mentre chiudevo le mie lettere con mano tremante, malgrado lo sforzo che stavo facendo per mostrarmi calmo e convincermi che quella storia era inverosimile, ripetendomi che la cosiddetta signora Graham non poteva essere volontariamente tornata da suo marito né aver accettato di riconciliarsi con lui. Era più probabile che se ne fosse andata e che quel domestico, non sapendo che ne fosse stato di lei, avesse fatto quell'ipotesi, che ora la nostra affascinante visitatrice voleva darci per certa, felice di potermi tormentare. E Era possibile però che si fosse in qualche modo tradita e che l'avessero costretta a tornare. Volevo sapere la verità. Mi misi in tasca le lettere, mormorando qualcosa circa il fatto che era tardi per l'ufficio postale, e uscii di corsa, gridando che mi venisse portato subito il cavallo. Non c'era nessuno, quindi andai io stesso a prenderlo nella stalla, lo sellai, lo imbrigliai e partii al galoppo alla volta di Woodford. Trovai il padrone di casa che passeggiava lì fuori assorto nei suoi pensieri. Vostra sorella è partita? Gli domandai di getto invece di salutarlo e chiedergli notizie della sua salute. Sì, è partita, e mi rispose con una tale calma da spazzar via in me ogni paura. Immagino che non mi sia dato di sapere dove è andata, chiesi smontando da cavallo e lasciandola al giardiniere, che su richiesta del padrone, essendo l'unico domestico che si trovasse a portata di voce, dovette interrompere il suo lavoro per condurlo alla stalla. Il mio amico mi afferrò per il braccio e mi allontanò di là, poi mi rispose: «E a Grassdale Manor?» «Dove avete detto?» chiesi di scatto. «A Grassdale Manor? Ma com'è possibile? Chi l'ha tradita?» «Ci è tornata volontariamente.» «È impossibile, Lawrence. Non posso credere che sia stata tanto folle.» Dissi afferrandolo con forza per un braccio, come se potessi in quel modo costringerlo a rimangiarsi quel che mi aveva appena detto. L'ha fatto invece, e non senza motivo, disse altrettanto calmo e solenne di prima, liberandosi dalla mia stretta. E signor Huntington è malato. Volete dirmi che è tornata per assisterlo? Sì. Che sciocca! Non riuscii a trattenermi, e Lawrence mi guardò con aria di muto rimprovero. È in punto di morte? Non credo, Markham. E quante altre infermiere si stanno prendendo cura di lui al momento? Nessuna, era da solo, altrimenti non sarebbe tornata. Ma che diamine, è intollerabile! A cosa vi riferite? Al fatto che fosse da solo? Non provai a rispondergli, poiché sospettavo che quella circostanza non facesse che peggiorare la mia confusione. Continuai a camminare in silenzio, in preda all'angoscia, con una mano premuta sulla fronte. Poi mi fermai di colpo e dissi inquieto: «Ma perché? Perché questa follia? Quale demone l'ha convinta a farlo?» «Nessuno, se non il suo profondo senso del dovere.» «Sciocchezze!» Lo credevo anch'io inizialmente, Markham, e posso assicurarvi che non sono stato certo io a convincerla, dato che disprezzo quell'uomo quanto voi, forse con l'unica differenza che la sua redenzione mi farebbe più felice della sua morte. Io mi sono limitato a informarla della sua malattia, che è seguita a una caduta da cavallo, e del fatto che quella poco di buono, quella signorina Myers, l'aveva lasciato già da tempo. È stato uno sbaglio. Ora gli farà comodo tenerla lì. Si inventerà chissà quali falsità e lei gli crederà. Così la situazione sarà per lei 10 volte più insostenibile e 10 volte più irrimediabile. Al momento non c'è ragione di preoccuparsi di questo, disse, tirando fuori una lettera dalla tasca, stando alle notizie che ho ricevuto stamattina. Riconobbi la sua scrittura. Istintivamente allungai la mano e prima di rendermene conto pronunciai la frase: «Fatemela vedere!» Lui esitò e io gliela strappai. Trovai la lucidità di offrirmi di restituirgliela un istante dopo. «Oh, prendetela pure se non volete che la legga», dissi. «Potete leggerla. La lessi e puoi farlo anche tu. Grassdale, 4 novembre. Caro Frederick, immagino sarai ansioso di ricevere mie notizie e ti dirò quanto posso. Huntington è effettivamente molto malato, ma non in pericolo di vita, e anzi sta molto meglio di come l'ho trovato al mio arrivo. La casa era in stato di abbandono, poiché la signora Greaves, Benson e gli altri domestici se ne sono andati, e chi ha preso il loro posto è a dir poco infido e inaffidabile. Se deciderò di rimanere, dovrò mandarli via. Hanno assunto un'infermiera vecchia e arcigna che si prendesse cura di lui. Huntington soffre ed è molto indebolito. Le ferite riportate a seguito dell'incidente, tuttavia, non sono molto gravi e, secondo il medico, sarebbero state una sciocchezza per un uomo che avesse condotto una vita più moderata. Nel suo caso le cose sono diverse. La sera in cui sono arrivata, l'ho trovato nella sua stanza, disteso a letto in preda al delirio. Non si accorse di me finché non cominciai a parlare, ma mi scambiò per un'altra. «Alice, sei tu? Sei tornata?» disse. «Perché mi avevi lasciato?» «Arthur, sono io, Helen, tua moglie.» Moglie, sobbalzò. Per carità, non la nominare. Non ho nessuna moglie io. Se l'è presa il demonio, gridò. E che prenda anche te, ma che ti salta in mente? Non aggiunsi altro, ma vedendo che non faceva che fissare i piedi del letto, andai a mettermi lì, tenendo la candela in modo che mi illuminasse per bene. Credevo che stesse morendo e volevo che mi riconoscesse. Prima restò a guardarmi in silenzio, con sguardo assente, e via via con una crescente intensità. Poi mi spaventò tirandosi su, appoggiato al gomito e guardandomi con orrore, sussurrò: Chi sei tu? Sono Helen Huntington, gli risposi spostandomi da un'altra parte. Sto diventando pazzo, disse. O forse è il delirio. Ma chiunque tu sia, vattene. Non sopporto il tuo volto pallido e quegli occhi, per l'amor di Dio. Mandami qualcuno che non abbia quella faccia. A quel punto uscii e mandai a chiamare l'infermiera. Il mattino dopo entrai di nuovo, prendendo il posto dell'infermiera accanto al letto, e restai a osservarlo e a accudirlo per diverse ore, cercando di non farmi notare e parlando pochissimo e sempre a voce molto bassa. Inizialmente credeva che fossi l'infermiera, ma quando poi mi alzai per andare a chiudere gli scuri della finestra, come aveva chiesto, disse: No, non sei l'infermiera, sei Alice. Resta, ti prego, quella strega mi farà morire. Resterò, dissi. E da allora mi chiama Alice, o con altri nomi ugualmente offensivi per me. Decisi di non contraddirlo inizialmente per timore che si agitasse troppo. Poi, mentre gli tenevo il bicchiere alle labbra, mi disse: Grazie, cara. E io non potei fare a meno di ribattere: Non diresti così se mi riconoscessi davvero. Gli avrei voluto subito dopo rivelargli infine chi fossi, ma vedendo che le sue risposte erano ancora incoerenti, rimandai a qualche tempo dopo, quando, mentre gli stavo bagnando la fronte con acqua e aceto per abbassargli la febbre, mi guardò a lungo e osservò: Ho delle strane visioni. Tra tutte le più strane sono il tuo viso e la tua voce. Sembri lei. Giurerei di avere lei accanto in questo momento. Ed è così, infatti. Mi piace, sì, disse. Mentre lo fai, ecco, le altre visioni mi abbandonano, ma questa resiste, anzi, si rafforza. Continua, falla sparire, non posso sopportare questa follia. Non sparirà, gli risposi, perché è la verità. Come la verità? Esclamò, tirandosi a sedere veloce come un serpente. Intendi dire che sei davvero lei? Proprio così, ma non serve fuggire, come se fossi la tua peggiore nemica. Sono tornata per accudirti e fare quel che nessuna delle altre farebbe mai. Oh, per Dio, non vorrai tormentarmi proprio adesso! Mormorò, poi si mise a imprecare a bassa voce contro di me e contro la mala sorte che mi aveva riportata a casa mentre io poggiavo a terra il secchio con la spugna. Che fine hanno fatto gli altri? Se ne sono andati? Tutti? Ci sono dei domestici a portata di voce, se desideri, ma resta tranquillo. Nessuno potrebbe né vorrebbe prendersi cura di te come farei io. Io non capisco, ho sognato! E così dicendo si portò una mano sugli occhi come per vederci finalmente chiaro. No, Arthur, non è stato un sogno. Ti sei comportato in modo tale da costringermi ad andarmene, poi ho sentito che eri malato e solo, e sono tornata per accudirti. Non hai nulla da temere. Dimmi quali sono i tuoi desideri e farò del mio meglio per soddisfarli. Non starò certo a rimproverarti ora. Ah, ecco, quindi è per carità cristiana che sei qui. Speri di guadagnarti un posto migliore in paradiso e scavare una fossa più profonda all'inferno per me, eh? No, sono qui per offrirti l'appoggio e l'assistenza che ti servono. Se potessi fare del bene alla tua anima oltre al tuo corpo, incoraggiandoti a pentirti. Ah, sì, certo, proprio il momento giusto di cui approfittare per coprirmi di rimorso e di vergogna. Che fine ha fatto fare a mio figlio? Sta bene, e non appena ti sarà rimesso potrai vederlo. Dov'è? Al sicuro. E qui? In ogni caso non lo vedrai finché non avrai dichiarato che accetti di affidarlo alla mia custodia esclusiva e di lasciarmelo portare via ovunque io desideri e in qualsiasi momento io ritenga opportuno allontanarlo nuovamente. Di questo parleremo domani. Adesso resta calmo. Voglio vederlo! Subito! Se devo farlo, prometterò! No! Lo giuro su Dio! Ecco ora, fammelo vedere! Non ho fiducia nella tua parola, né nelle tue promesse. Voglio un accordo scritto e da te firmato alla presenza di un testimone, ma domani, oggi no. No, oggi, subito, insistette. Era talmente eccitato e fuori di sé alla prospettiva di questa pronta gratificazione del suo desiderio che fui costretta a cedere, anche perché altrimenti non avrebbe riposato. Ero comunque determinata a non trascurare gli interessi di mio figlio e, avendo già scritto chiaramente su un foglio quel che volevo dal signor Huntington in proposito, glielo lessi e glielo feci firmare davanti a Rachel. Cosa che mi pregò di non fare, dicendomi che era solo un'inutile attestazione di sfiducia nei suoi confronti. Gli risposi che, avendo perso completamente la mia fiducia, doveva invece accettarne le conseguenze. Dissi che non riusciva a tenere in mano la penna. Ebbene, in questo caso aspetteremo che tu abbia recuperato le forze, replicai. Allora si sforzò di farlo, ma dichiarò di non vederci abbastanza bene per scrivere bene. Posai un dito nel punto esatto in cui doveva firmare, rispondendogli che sarebbe stato perfettamente in grado di scrivere il suo nome se gli avessi indicato dove. Niente, non aveva la forza di tratteggiare le lettere. Vuol dire che sei troppo malato per vedere il bambino, gli dissi. Ero inamovibile e alla fine firmò l'accordo. Solo a quel punto chiesi a Rachel di portare il piccolo Arthur. Penserai che sia stata impietosa, eppure sentivo di non dover perdere quel poco vantaggio e di non dover sacrificare la futura serenità di mio figlio solo per un moto di clemenza nei confronti di quell'uomo. Arthur non aveva scordato suo padre, ma a 13 mesi di lontananza, durante i quali non l'aveva quasi mai sentito nominare, né aveva potuto pronunciare il suo nome, l'avevano reso un po' timido. Così, quando entrò nella stanza in cui giaceva il malato, tanto cambiato nell'aspetto, con il viso rosso e gli occhi selvaggi, si avvinghiò stretto a me, fissando il padre più con timore che con gioia. «Vieni da me, Arthur!» lo chiamò il padre, tendendo la mano verso di lui. Il piccolo si avvicinò a toccare la sua mano bollente e fece per scattare all'indietro impaurito, quando lui lo prese per un braccio, avvicinandolo a sé. «Mi riconosci?» gli domandò il signor Huntington, guardandolo intensamente. «Sì, chi sono?» «Sei papà?» «Sei contento di vedermi?» «Sì.» «No, non è vero!» gli rispose allora, allentando l'abbraccio e rivolgendomi uno sguardo vendicativo. Una volta che l'ebbe liberato, Arthur tornò di nuovo vicino a me e mi strinse la mano. A quel punto suo padre mi accusò di aver fatto in modo che il bambino lo odiasse e mi insultò in ogni modo. Mi affrettai ad allontanare il piccolo e aspettai che riprendesse fiato per fargli presente che si sbagliava, che non avevo mai e poi mai cercato di suscitare nel bambino il più piccolo pregiudizio. Volevo che ti dimenticasse, ovviamente, gli dissi, e soprattutto che dimenticasse quel che gli avevi insegnato. È solo per questa ragione. Oltre che per il timore che ci scoprissero, riconosco di aver scoraggiato ogni discorso che riguardava te, ma non credo di potermi accusare per questo troppo duramente. Il malato limitò la sua risposta a una serie di grugniti e versi emessi scuotendo la testa sul cuscino con insofferenza. Devo essere già all'inferno, questa sete mi sta uccidendo, possibile che non ci sia nessuno che... Non aveva neppure finito la frase che già avevo versato un bicchiere di qualcosa di dissetante che avevo trovato sul tavolo e gliel'avevo portato. Beve con avidità, mormorando tra un sorso e l'altro: «Stai ammassando carboni ardenti sul mio capo, quindi...» Ignorai il suo commento e gli domandai se c'era altro che potessi fare. «Ma sì, voglio darti un'altra occasione di dimostrare il tuo spirito cristiano», disse. «Sistemami il cuscino e le coperte». Obbedii. «E adesso dammi un altro bicchiere di quello schifo», obbedì. «Che bello, eh?» mi disse con malizia mentre gli tenevo il bicchiere alle labbra. «Non avresti osato sperare in un'altra occasione tanto gloriosa, non è vero?» «Vuoi che resti qui con te, adesso?» gli chiesi mentre andavo a mettere a posto il bicchiere. «O preferisci che me ne vada e ti mandi l'infermiera?» «Come sei cara e premurosa! Ma certo, così mi farai impazzire!» esclamò scrollando la testa impaziente. «Bene. Allora ti lascio», risposi, e lasciai la stanza. Per quel giorno non tornai a infastidirlo, se non per qualche minuto di tanto in tanto, giusto per vedere come stava e se aveva bisogno di qualcosa. La mattina dopo il dottore prescrisse un salasso e dopo sembrò più tranquillo. Trascorsi mezza giornata nella sua stanza e la mia presenza non pareva infastidirlo o agitarlo come prima. Accettò docilmente i miei servizi senza fare battute. Non ha quasi mai parlato se non per esprimermi le sue richieste, comunque in poche parole. Il giorno dopo, però, ossia oggi, riacquistando le forze, riprendeva vigore anche la sua cattiveria. Che dolcissima vendetta! Ha gridato dopo che ho finito di accomodarlo meglio, rimediando alle negligenze dell'infermiera. Puoi godertela anche con serenità, compiendo il tuo dovere. È per fortuna che sto compiendo il mio dovere, risposi con grande amarezza, che è la mia sola consolazione. E l'appagamento della mia coscienza, a quanto pare, è l'unica ricompensa in cui posso sperare. Che ricompensa cercavi? Mi chiese stupito dal mio tono. Non ci crederai se te lo dico, ma speravo di poterti fare del bene, di migliorare la tua mente, oltre che curare le tue sofferenze fisiche. Invece non mi riuscirà di fare nessuna delle due cose, grazie al tuo cattivo carattere. Ho soffocato i miei sentimenti e rinunciato alle poche comodità terrene che mi erano rimaste per te, ed è tutto inutile. Giudichi ogni mio gesto come un'ipocrisia dettata solo dal mio desiderio di vendetta. Ah, mi pare tutto molto bello davvero, ha risposto lui guardandomi stupito. E forse dovrei piangere ora, pentirmi, sciogliermi davanti a tanta straordinaria generosità. Ma come vedi, non ci riesco. Tu però fammi tutto il bene che puoi. Ti supplico, se ti procura piacere, giacché sono tanto infelice quanto puoi desiderare. Da quando sei arrivata tu sono accudito meglio, è vero, perché questi altri mi trascurano senza pudore e tutti i miei amici si sono dimenticati di me. È stato orribile, davvero. Ci sono momenti in cui pensavo di morire. Credi che sia possibile? Morire è sempre possibile e dovremmo tenerlo sempre presente. Sì, ma tu credi che questa malattia potrebbe portarmi alla morte? Non lo so davvero, ma se lo fosse, in che modo l'affronterai? Il dottore mi ha detto di non pensarci, che sarei sicuramente guarito se avessi seguito i suoi consigli e le sue prescrizioni. Spero che sia come dici tu, Arthur, ma credo che né il dottore né io siamo in grado di esprimerci in tal senso, considerando le circostanze. Hai subito delle lesioni interne. È molto difficile sapere se e quanto siano gravi. Tu vuoi solo spaventarmi. No, ma neppure lasciarti nell'illusione di una falsa sicurezza. Se questa incertezza può indurti a serie e utili meditazioni, non sarò io a privartene. L'idea della morte ti spaventa molto? Ah, non ci posso neanche pensare, quindi. Però prima o poi arriverà e sarà senz'altro aborrita come adesso, se non. Che diamine! Smettila di torturarmi con queste prediche se non vuoi che muoia sul colpo, perché non le sopporto proprio. Mi sembra di soffrire già abbastanza, quindi se credi che esista questo pericolo, aiutami a scongiurarlo e a quel punto, per sdebitarmi, ascolterò tutto quel che hai da dirmi. Ho subito lasciato cadere l'argomento tanto odiato. È arrivato il momento di concludere la mia lettera, Frederick. Da questi dettagli potrai comprendere da te quali siano le condizioni del malato e quali le mie prospettive future. Scrivimi al più presto. Io ti farò sapere come procedi qui. Ma adesso che la mia presenza in casa è accettata e persino cercata dal malato, tra mio marito e mio figlio non mi resterà molto tempo libero. Non voglio infatti trascurare il bambino, né ritengo giusto che resti sempre con Rachel. Con gli altri domestici non voglio lasciarlo e non desidero che resti solo e che possa incontrarli. Se Huntington dovesse peggiorare, chiederò a Esther Hargrave di stare un po' con il piccolo, almeno finché non avrò finito di riorganizzare la casa, anche se preferisco averlo vicino. È una situazione molto particolare quella in cui mi trovo. Faccio il possibile affinché mio marito guarisca nel corpo e nello spirito, ma se dovessi riuscirci, che cosa farò? Certo, il mio dovere, ma come? Non voglio pensarci. Se sono in grado di affrontare questo compito, Dio mi darà la forza di fare qualsiasi cosa si renda necessaria in futuro. A presto, caro Frederick. Helen Huntington. Che ve ne pare? Mi chiese Lawrence mentre chiudevo la lettera in silenzio. Mi sembra che stia gettando le sue perle ai porci, risposi. Spero che si accontentino di calpestarle senza osare ferirla. Non voglio dire nulla contro di lei perché vedo che sono stati più nobili motivi a muoverla. E se il suo è stato un passo sventurato, che Dio la protegga dalle conseguenze. Posso conservare questa lettera, Lawrence? Dato che non mi ha neanche nominato né ha fatto la minima allusione a me, non ci sarebbe niente di male. Ma perché ci tenete a conservarla? Non sono frasi scritte di suo pugno, forse? Parole nate nella sua mente, alcune persino pronunciate dalle sue labbra? E va bene, concesse. Ed ecco perché, Holford, ho potuto trasmettertene nel dettaglio il contenuto. Quando le risponderete, abbiate la bontà di chiederle se posso informare mia madre e mia sorella di quale sia la sua vera storia, in modo che tutto il vicinato sappia il grande torto che le ha fatto, dissi. Non cerco parole d'amore, ditele solo questo, e che sarebbe il più grande favore che mi potrebbe concedere. Ditele anche. No, non ditele altro. Vedete? Ora conosco il suo indirizzo e potrei scriverle io stesso, ma sono così onesto che non lo farò. D'accordo, Markham, lo farò io. Quando vi risponderà, me lo direte? Verrò a dirvelo, subito, di persona.